schiavi invisibili. Questo è il popolo per me. Fanfarulla alla monotonia. Strizzare. Lezioni di rime, lezioni di stile. Che sulle spine ti senti il dolore. Opinioni sbagliate per sentito dire. La via errate, segui nella storia. Le ragazzine fan che fanno il pop. E si sentono che tra forse è qua. C'è chi tira in porta ma poi non fa gol. E chi tira in coca per fare lo snob. C'è chi sbaglia apposta per un auto gol. E chi esce pazzo per il blow. C'è come la suora col prete in sacrestia. O dottore infermiera in ortopedia. C'è chi fave o Maria, chi vende Maria. Si canta anima mia, se vedi la polizia. La mia testa distrutta fa boom boom boom. Ma se in testa a testa bevo solo rum. E la testa gira e gira. E la droga gira e gira. E la droga poi è la darà. Che parlo tanto, se parlo è perché sono stanco. Fanno tanto gli sprufoni in cerca di vittoria. Ma poi le mie canzoni le sanno tutta la memoria. Della mia città vedi macchine truccate, potenziate per bruciare le vostre puttanate. Io non faccio il gangsta, non faccio un cazzo, non faccio il boss. Ma sicuro che ti faccio rispetto. Drogati, perdenti, vincenti, odiati, scoppiati, ma non gli escrementi. Ti pensi di fare bella figura? Pratico di due ed è un video da paura. Siamo tutti bravi a dire puttanate. Ma sono un mostro, ma poi fatti dove sei. Io vuoi che ce l'ho, ma sapevo una cosa. E la testa gira e gira. E la droga gira e gira. E la droga gira e gira. E la droga gira e la darà. E la testa gira e gira. E la droga gira e gira. E la droga gira e la darà. E la droga gira e gira. E la droga poi è la darà. E la testa gira e gira. E la droga gira e gira. E la droga poi è la darà. Non avere limiti nella musica, nel mondo musicale è importante. Come è importante non giudicare o criticare gli altri. Prima bisogna conoscere a fondo se stessi. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore che lo raccomandò a Mosè. Quando deve giudicare, che ci sia la massima serenità. No.